10 lira pour cela. Et on parle de crise. Non. Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, la règle du jeu. Vas-y, continue. Il pezzo che avete appena ascoltato, Horoscopic, è della band Indianizer, che è una band all'attivo dal 2013 e che dopo aver pubblicato 2 EP e 2 LP, domani farà uscire il terzo album intitolato Nadir. E di questo ne parliamo con Riccardo Salvini, che è in collegamento telefonico con noi, che salutiamo. Ciao Riccardo. Ciao, ciao a tutti, grazie mille. Come va? Bene, bene, grazie. Bene. Voi, spero anche voi. Sì, sì, sì, certo. Quando siamo in diretta siamo tutto sempre benissimo. Ok, ok. Senti, Riccardo, abbiamo letto che voi stessi avete definito la vostra musica come Psych Tropical Beat. Di cosa si tratta? Ma è un modo che ci siamo inventati per riassumere un po' quello che facciamo. Quindi Psych sta per psichedelico, Tropical... come dire, intende riassumere un po' le influenze a cui facciamo riferimento, quindi suoni sudamericani, africani, insomma qualcosa che rimanga nell'ambito del tropico, e beat perché sia dal punto di vista del battito, proprio nel senso che è una musica molto legata alla danza e al ritmo, sia perché ha una sorta di rimando alla musica beat anni 60, quindi con quello spirito non disimpegnato, cioè disimpegnato ma non senza contenuti, ecco. Senti Riccardo, il vostro prossimo album, che uscirà appunto domani, si intitola, chiamato Nadir, e da descrizione, senza spoilerare i contenuti, investiga misteri irrisolti e verità mai rivelate. Vogliamo saperne di più. Dunque, riferendo, è una sorta di chiusura di una trilogia che ci siamo accorti di aver scritto senza averlo programmato precedentemente. E in questo caso Nadir, appunto, trattandosi dell'esatto opposto dello Zenith, esce un anno dopo lo scorso disco che si chiamava Zenith, per l'appunto. E quindi se in Zenith cercavamo, insomma, una sorta di fuga dall'oscurità seguendo la luce, per essere, non per fare i pipponi, ma come sorta di metafora, in questo caso invece abbiamo fatto un lavoro molto più legato a qualcosa che fosse nascosto, che non fosse, abbiamo cercato di indagare dentro qualcosa di interiore della band, che fosse appunto oscuro e poco decifrabile anche a noi stessi. Siamo stati molto più affascinati dal mistero e meno dalla liberazione di esso, ecco. Affascinante, molto interessante. E un'altra questione che ci ha colpite particolarmente è quella riguardo la disco music del Medio Oriente. Tu prima hai parlato di beat, e comunque ascoltando i vostri pezzi si riconosce questa vocazione per il beat, per la danza, per il movimento corporeo, ma poi abbiamo letto che vi ispirate alla disco music del Medio Oriente. Noi non abbiamo mai sentito parlare, in effetti. Assolutamente. Di che si tratta? Sì, no, più che altro quello che abbiamo cercato di fare è di provare anche a trovare nuovi luoghi da cui trarre ispirazione, quindi invece di legarci unicamente al Sud America o all'Africa, che sono stati sicuramente ispiratori per Nyunawai e Zenith, in questo caso ci siamo andati, mantenendo sempre quelle coordinate lì, ma ci siamo spostati un po' più verso il Mediterraneo. E quello che cerchiamo di fare è sempre di unire la nostra attitudine occidentale, bianca, perché quello siamo, però cercando sempre di mischiarla con altre culture, almeno per quello che possiamo trarne noi da qua. E in questo caso qui, per questo disco, abbiamo trovato molta ispirazione verso dei suoni più che degli artisti precisi, che ci rimandavano più al Medio Oriente, a luoghi appunto del Mediterraneo. Poi quello che ci interessa anche ogni tanto è un po' un melting pot delle varie culture, non ci vogliamo fossilizzare su una sola visione, almeno il tentativo che facciamo è quello. Ecco, a proposito di melting pot che hai appena nominato, questo riguarda anche le parole delle vostre canzoni. Io leggo che cantate in inglese, in spagnolo, in creolo, e che a volte mischiate addirittura queste tre lingue per creare proprio un nuovo spazio linguistico. In che modo? Sì, ma semplicemente anche da questo punto di vista, dopo un po' ci si è resi conto che cantare solo in inglese era un po' troppo limitante e non avrebbe anche così, come dire, descritto l'attualità che viviamo. Ci interessa molto cercare di racchiudere dentro la nostra musica quello che è il mondo attuale, che quindi ha anche l'influenza del passato, ma fondamentalmente cantando in diverse lingue ci sembra di rappresentare diverse culture e i vari problemi che hanno tutte queste culture di cui possiamo parlare o che possiamo portare nella nostra musica. Certo, e tornando alla pubblicazione del vostro album, che per l'appunto uscirà domani, dove possiamo ascoltarlo, dove possiamo reperirlo? Soprattutto avete un tour in programma, delle date? Allora, uscirà in supporto vinile e CD, e invece in digitale lo si trova sulle piattaforme streaming, quindi Spotify, Deezer e Apple Music, oppure sul sito di Reason Box Records, che è l'etichetta con cui stiamo facendo uscire il disco. Abbiamo un tour in programma adesso in queste due settimane fra Olanda e Lussemburgo, e poi andremo in Svizzera, e in Italia dovremo passare verso marzo-aprile, quindi seguendo la nostra pagina Facebook o Instagram aggiorneremo tutte le date mano a mano. Perfetto, noi allora Riccardo ti ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni, invitiamo gli ascoltatori a seguire appunto le novità sulla vostra pagina Facebook e ascoltare il disco che appunto sarà disponibile a partire da domani. Grazie ancora per essere stato grazie con noi. Grazie a voi, grazie mille. Noi a questo punto vi lasciamo a un altro singolo degli Indianizer, questa è Syncope Cleopatra.